Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana e siamo in diretta, come annunciato già ieri, da Genova, dove si è aperto circa 2 ore fa il convegno di Confindustria, che continuerà anche domani, dedicato all'occupazione e alla competitività, due temi quanto mai d'attualità dopo i dati diffusi ieri dall'Istat che hanno segnato un aumento ulteriore della disoccupazione in Italia. Molto ne abbiamo discusso. Fra poco vi sarà l'intervento anche del vicepresidente per le relazioni industriali della Confindustria, Alberto Bombassei, e poi il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta. Domani sarà la volta di Pierluigi Bersani, segretario del PD, e poi, assieme a altri relatori, il segretario della UIL Angeletti, quello della CIS Bonanni e quello della CGIL Epifani. Chiuderà il ministro al welfare Sacconi e poi la presidente di Confindustria Marcegaglia, e quindi parleremo di lavoro, mercato del lavoro e anche delle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente della Confindustria Marcegaglia. Ha detto in sostanza non è vero che l'Italia sia uscita meglio di altri paesi dalla crisi. Poco fa abbiamo raccolto invece la risposta del ministro Brunetta. Di questo parleremo più avanti. Prima di tutto un aggiornamento dei mercati finanziari, che stanno festeggiando il fine settimana con un rialzo decisamente forte: più 1,8% a Milano, più 1,9% a Parigi, più 1,8% anche Francoforte e poi più 1% Londra, mentre l'America sta guadagnando l'1,7%, quindi aumenta da là anche ai rialzi. È molto debole il dollaro, perché l'euro si avvicina a quota 1,35 e vanno molto bene tutti i titoli bancari e non solo. Mediolanum un più 4%, Unicredit più 3,4%, Monte dei Paschi più 3,2%, Intesa più 3,2%, Banco Popolare più 2,2%. Allora, il numero per i vostri sms come sempre è 349-238-6666. Partiamo subito con le notizie in breve. Allora, per quello che riguarda i titoli, ancora un paio di aggiornamenti sul fronte appunto della borsa. Vanno bene, diciamo, i titoli legati al mondo bancario, ma anche Fiat, che guadagna quasi il 3%. Di negativa c'è solo in pregiro meno 0,80%. Cosa è successo? In sostanza tutte le borse hanno girato in positivo dopo i dati americani superiori alle previsioni. Dati americani di cui poi parleremo, però attenzione, perché nel frattempo continuano le tensioni sull'Irlanda. La differenza tra quanto rende un'obbligazione irlandese e anche portoghese rispetto a quanto rende un'obbligazione tedesca è schizzata ai massimi, nuovo record, il 4,27% di differenza per l'Irlanda e il 4,16% come rendimento di differenza per il Portogallo. E poi a Tokyo il governo giapponese è intervenuto ancora una volta a difendere lo yen, o meglio il dollaro si stava indebolendo troppo, era arrivato praticamente a quota 84 lo yen sul dollaro. Minimi storici del dollaro anche nei confronti del franco svizzero a 0,9786, mentre appunto nei confronti dell'euro siamo vicinissimi a quota 1,35. E nel frattempo, al di là delle varie rassicurazioni che alcuni governi cercano di mandare, l'oro continua a macinare record, e questa non è obiettivamente una bella notizia. L'oro ha toccato a questo punto i 1.300 dollari a New York, ce l'ha fatta finalmente, l'oncia Troy vale 31,1 grammi, per cui 1.300 dollari per 31,1 grammi, e a record da 30 anni anche l'argento, 21,357 dollari all'oncia, il livello più alto dal 1980. Notizie che appunto non sono necessariamente positive, anzi segnalano le forti incertezze sui mercati. C'è una notizia positiva invece con cui vorremmo aprire, che riguarda in questo caso l'Italia. Allora, una ricerca che ci è appena giunta in redazione, con cui appunto vorremmo dare anche un tono, così quando possibile, ottimistico alla puntata, riguarda la regione Sicilia. È stata fatta una ricerca con un campione rappresentativo della popolazione di 2000 casi e è stato chiesto, insomma, se la Sicilia è un territorio seduttivo per insediamenti industriali. È incredibile il numero di coloro che hanno risposto di sentirsi sicuri nel comune, nel quartiere di residenza. Il 74% delle risposte. Allora, siamo in collegamento con il vicepresidente di Confindustria, Antonello Montante, che è anche delegato per i rapporti con le istituzioni e per il controllo con il territorio. Vicepresidente, buonasera. Buonasera a lei. Allora, sappiamo tutti, l'abbiamo raccontato molte volte, che lei, il presidente degli industriali siciliani Ivanoio Bello, è da anni che conducete una campagna forte, fortissima, che si chiama, è partita con l'espulsione degli associati che pagano il pizzo, è andata avanti una lotta contro il racket, un appoggio forte alle istituzioni. Sorpreso del dato? No, dico, l'ho appreso con grande soddisfazione questo dato dello studio Piepoli. In qualche modo ce l'aspettavamo, noi il dato lo conoscevamo in linea di massima, no, non con i numeri, ma diciamo la sensazione era netta. Quando abbiamo iniziato questa battaglia per il ripristino, questo percorso per il ripristino della normalità dei nostri territori, in qualche maniera avevamo già fatto la due diligence della Sicilia, cercando di capire i punti di forza e i punti di debolezza del nostro territorio. I punti di debolezza naturalmente era la forte presenza della mafia, anzi delle mafie, perché noi in Sicilia ne possiamo vantare due, quella, la mafia e la Stigna, e il punto di forza era la posizione geografica, la posizione geografica della Sicilia, centralità nei confronti del Mediterraneo. E da lì abbiamo capito che bisognava invertire le cose, cercando di avvicinare l'impresa alle istituzioni, facendo capire, oltre all'aspetto etico-morale, che non conveniva più stare o non conviene più stare con la mafia, con le organizzazioni criminali. Quindi conviene avvicinarsi alle istituzioni, conviene vivere di vero mercato, non di mercato controllato da parte delle organizzazioni criminali, come dicevo poc'anzi. Ecco, questo a cosa serve? Serve a fare un po' di marketing territoriale. Stiamo facendo capire all'esterno, agli investitori, che è un'opportunità oggi venire a investire in Sicilia. Creando o facendo vedere una sorta di convenienze, una dietro l'altro, quella della semplificazione amministrativa, dove c'è un assessore all'industria di estrazione di Confindustria, dove sta lottando alla burocrazia, sta lottando per ottenere una forma di semplificazione amministrativa delle procedure regionali. E questo diventerebbe, assieme alla lotta alla mafia, un punto di attrattività, certo. E rendere competitiva la nostra regione, certo, nei confronti delle altre. Ci sembra importante, anche perché la notizia è appena giunta, ma di Sicilia in questi giorni ci siamo occupati moltissimo per il nuovo governo di Lombardo, le nuove alleanze, dimenticando che poi la politica è una cosa, per carità, e anche criticando alcuni costi della provincia di Palermo, del comune di Palermo, insomma, ne abbiamo parlato lungamente. In realtà la cosa interessante è che, lo dico io perché tanto voi per modestia non lo dite, che molti intervistati, il sondaggio appunto è dell'Istituto Piepoli, individuavano nel miglioramento del clima e delle risposte anche l'iniziativa presa da Confindustria, prima di Caltanissetta e poi completamente siciliana, quindi lei, Ivanoio Bello. Poi il numero di coloro che hanno dichiarato di sentirsi protetti dalle forze dell'ordine in Sicilia si è rafforzato, è all'85%, e anche questa è un'ottima notizia, va dato applauso alle nostre forze dell'ordine, e il numero appunto di cui si sente sicuro nel suo comune di residenza è del 74%. Ancora più impressionante il numero di coloro che si sentono in condizione di aprire una nuova azienda, il più alto di tutta l'Italia, il 50%. I prossimi passaggi, vicepresidente Montante, visto che tutta l'iniziativa, da alcuni anche guardata con scetticismo, diciamolo, nata con l'espulsione di chi paga il pizzo, con la politica contro il racket e quant'altro, ha dato questi risultati. I prossimi vostri passaggi in quello che lei ha chiamato giustamente anche un marketing territoriale? Sì, il prossimo passaggio è quello di far capire alla politica siciliana, da decenni immobile sul tema, come dicevo io, della sburocratizzazione, perché è un'altra piaga che attanaglia, diciamo, o che blocca lo sviluppo della nostra isola, quello di far capire alla politica che deve seguire le indicazioni in questo caso della Confindustria siciliana, che può portare dei grandi benefici, un grande valore aggiunto all'economia generale, quindi facendo crescere il PIL interno, annullando il PIL che produce la mafia e ribaltandola in positivo al PIL che può produrre la vera economia, quella dell'agroturismo, dell'agroalimentare, dell'industria e quant'altro. Beh, insomma, importante questo anche perché proprio oggi abbiamo commentato in varie GR, già ieri sera, cosa sta capitando invece a Napoli, in Campania, anche lì. Insomma, problemi non risolti, infiltrazioni camorristiche non risolte nella gestione dei rifiuti. Ogni tanto parlare bene del nostro sud fa bene al sud, fa bene anche a noi. Grazie al vicepresidente Confindustria in collegamento con noi, Antonello Montante. Noi riprendiamo invece con le nostre notizie in breve, perché? Perché in Spagna arriva la tassa sui ricchi, nella finanziaria 2011 la legge spagnola di bilancio che oggi il governo di Madrid ha presentato introduce più tasse per i redditi elevati, mentre in Italia è arrivato un dato che è riferito a luglio, attenzione, le vendite al dettaglio però si sono fermate a luglio, ferme rispetto a giugno, più 1,7% rispetto a luglio del 2009. E poi la Commissione Europea che interviene sugli sconti del pagamento dell'ICI alla Chiesa Cattolica in Italia. La Commissione Europea ritiene non ancora chiuso il caso dello sconto ICI alla Chiesa, lo ha dichiarato il portavoce della Commissione Europea alla concorrenza Gioacchino Almunia. E per due volte, infatti, la Commissione Europea ha deciso di respingere le denunce ricevute. Ma i ricorrenti si sono rivolti poi alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, obbligando quindi Bruxelles a riaprire il dossier. Secondo i denunciatari, le agevolazioni ICI e IRES concesse agli enti ecclesiastici, in particolare a quelli che operano nella sanità e nell'istruzione, sono illegali perché si prefigurano come un aiuto di Stato improprio. Botta e risposta tra il presidente della Cassa Marca, quindi una delle fondazioni dentro Unicredito, Cassa Marca vuol dire Treviso, come Caribrona vuol dire Verona, Dino De Poli, che ha bacchettato il presidente delle Generali Cesare Geronzi, il quale in un'intervista ieri aveva detto, insomma, le fondazioni azioniste hanno agito anche criticandole nell'estromissione di Alessandro Profumo da Unicredito, l'hanno gestita male. De Poli oggi ha replicato in un'intervista dicendo l'uscita di Profumo non è frutto di complotti piano orchestrati, ma è frutto di decisioni di amministratori responsabili e guidati dal presidente Dieter Trump. E poi la risposta è arrivata più tardi invece da Cesare Geronzi, che ha detto: attenzione, ci sono rischi da non sottovalutare affatto, ai quali in qualche realtà potrebbe essere esposto il rapporto tra enti territoriali, fondazioni e banche in nome di una visione di localismo non correttamente inteso. E poi la caccia al nome, un argomento che in questo momento ci interessa anche relativamente poco. Insomma, se secondo il Financial Times dovrebbe essere Matteo Arpe il nome ovvio, ma in questo paese di ovvio non c'è niente, per la successione di Alessandro Profumo alla guida di Unicredito, per il Sole 24 Ore oggi in edicola, il Messaggero, la Repubblica, il principale candidato alla successione di Profumo sarebbe invece Andrea Orcel, banchiere d'affari di Bank of America Merrill Lynch. È un banchiere di caratura internazionale, che viene da un'esperienza con quella di Bank of America Merrill Lynch, secondo alcuni quotidiani avrebbe avuto un colloquio di assunzione addirittura con il presidente scusatemi, Dieter Rampl e il vicepresidente Panenzone, il presidente della fondazione Cari Verona Paolo Biasi. Poi sarebbe interessante capire il sindaco di Verona Tosi e il presidente della regione Veneto Zaia di fronte a un manager ancora più internazionale, ancora più cresciuto all'estero, cosa pensano, se in questo modo immagino che Unicredit sarà ancora più vicino al territorio. Ma li cercheremo nei prossimi giorni. Allora, per quello che riguarda il mercato del lavoro, i temi di Genova li affronteremo nella seconda parte del programma, nella seconda ora del programma. Vorrei invece adesso occuparmi di due settori che un po' che trascuriamo, chiedo anche venia: il settore delle costruzioni da un lato e il settore dei trasporti dall'altro. Partiamo dal tema delle costruzioni, perché ci sono dei progetti che riguardano le grandi opere e anche, diciamo, come rendere i progetti finanziabili. 349-238-6666 per i vostri SMS. E allora, dal punto di vista dell'edilizia, che significa 300.000 imprese e oltre 2 milioni di lavoratori in questo paese, beh, i dati li abbiamo raccontati altre volte, sono stati drammatici nel 2009, 2.000 imprese fallite, un 30% in più rispetto al 2008, e nei primi tre mesi del 2010 un ulteriore aumento del 30% di aziende che hanno chiuso, 210.000 posti di lavoro saltati nel 2009. E la denuncia del presidente dell'ANCI Paolo Buzzetti, a margine di un convegno organizzato dal regista navale italiano, al microfono del collega di Radio Corriere del Sole 24 Ore, Nicola Filippone, che insomma dal punto di vista delle infrastrutture in Italia si continui a perdere terreno. Il paese è risultato completamente fermo con la crisi, cioè ha messo a nudo un immobilismo nel prendere decisioni ma anche nell'attuare le decisioni prese. Pensiamo alla delibera del CIPE rispetto ai lavori pubblici dell'anno scorso, che nella grandissima parte poi non riesce a distanza di un anno a tradurre quei denari in opere, a far partire i cantieri, a trasferirli alle stazioni appaltanti. In particolare sulle grandi opere, tutte quelle che sono le difficoltà, da cominciare dall'approccio col territorio per spiegare l'opera che arriva, fino a individuare i tempi lunghi delle decisioni a monte del progetto, il progetto, la messa in gara, che rendono, diciamo, complesso e difficile arrivare in tempi brevi a realizzare le opere anche sulle quali si hanno i finanziamenti. Quindi stiamo continuando a perdere terreno invece che riguadagnarlo dal punto di vista delle infrastrutture. Quindi occorrerebbe una visione che non pensi solo a domani mattina, ma magari anche a qualche anno di distanza, e che vada a ritoccare quei meccanismi per i quali siamo troppo lenti, per dirla semplicemente, cercando anche di far attirare di più i finanziamenti privati, che hanno però bisogno di tempi e regole certe. Se non si ottiene questo, di avere tempi e regole certe, il finanziamento privato fugge e non lo possiamo aggiungere a quello pubblico, che già scarseggia. E se invece vi fosse una maggiore unità tra gli investimenti nel pubblico e nel privato, potrebbe anche aumentare il numero di opere pubbliche. Pensate che nel 2009 gli investimenti in opere infrastrutturali realizzati nel partenariato, come si chiama, pubblico-privato, hanno vissuto un vero e proprio boom: 1.900 gare, un volume d'affari di 9 miliardi e 300 milioni di euro, il 30% dell'intero mercato delle opere pubbliche in gara, come ha ricordato il presidente di Unioncamere Ferruccio Dardanello, sempre al microfono del collega di Radio Cor, Nicola Filippone. La partnership pubblico-privata sta avendo qui nel nostro paese un grande successo. Nel 2009 quasi il 30% delle opere pubbliche sono state realizzate proprio in collaborazione con Project Finances, perché i dati ce lo confermano, l'Osservatorio Nazionale sulla Finanza di Progetto che Unioncamere insieme al CERMED ha in qualche modo realizzato ci conforta in questa direzione, quindi sempre di più per poter realizzare le opere pubbliche in Italia. È vero che poi il 50% di queste non superano 1 milione di euro, ma circa 2.000 opere nel 2009 sono state realizzate, dando quindi uno stimolo al capitale privato ad entrare a sopperire a quella carenza di risorse economiche che in questo momento il governo, lo Stato può mettere a disposizione per la competitività del nostro Paese. C'è da incentivare assolutamente in questa direzione questo percorso, che potrà portare forse a recuperare quel gap infrastrutturale che il nostro Paese ha nei confronti anche dei nostri competitor europei, e sempre di più però c'è bisogno che vi sia una normativa che non metta ulteriore difficoltà il processo e il percorso di avvicinamento a queste problematiche, e poi ci sia la finanza e il sistema bancario che sappiano in qualche modo avvicinare le progettualità alla realizzazione con le risorse finanziarie adeguate. Così appunto il presidente di Unioncamere. Adesso la pausa pubblicità e meteo. La borsa è chiusa bene, non ai massimi, ma più 1,6%, molto forti CIR, più 4,90%, Mediolanum più 4%, Intesa San Paolo e Unicredit più 3,20%, 349-238-6666 per i vostri sms, e ci risentiamo con gli altri temi dopo le informazioni meteo. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni da Genova, dove è in corso l'intervento del vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei. Tema le relazioni industriali, un tema delicatissimo in questo periodo per la vicenda Fiat Pomigliano, ma non solo, dedicheremo a questo tutta la seconda parte del programma. Prima però vorrei aprire la pagina di borsa e poi tornare invece sul tema delle infrastrutture, perché oggi oggi si sta praticamente concludendo a Berlino Innotrans 2010, che è la più importante fiera del settore ferroviario a livello europeo, e c'è stato anche un botte e risposte, Ferrovie dello Stato, Ansaldo, Bombardier, dopo la gara per i treni in alta velocità bloccata sul ricorso dell'Alstom, insomma vicenda che forse ricorderete. Comunque, prima di tutto la borsa. E dopo una settimana di incertezza, quantomeno, la chiusura è nettamente positiva. Dicevamo più 1,7%, il FTSE MIB riconquista i 20.600 punti, il Dow Jones guadagna l'1,7%, Parigi l'1,9%, Francoforte l'1,8%, Londra l'1%, quella più debole come rialzo. La vera notizia riguarda da un lato il rischio Irlanda e Portogallo, che continua a salire in quello che è il rendimento delle obbligazioni irlandesi e portoghesi. Non vogliamo gufare, se no mi autodò il gufo, però qui il rischio misurato sui rendimenti irlandesi si sta avvicinando pericolosamente a livelli greci, speriamo di no. E dall'altro questa estrema debolezza del dollaro che ha obbligato il Giappone a in qualche modo contrastare un dollaro sempre più debole nei confronti dello yen. Ha raggiunto il dollaro il nuovo minimo storico da 30 anni, scusatemi per la precisione, nei confronti del franco svizzero, e con l'euro è a quota 1,35, e per cui di nuovo molto molto debole il biglietto verde. Come sempre il Radio Corriere sulle 24 ore con la borsa, con i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Allora, questi dati americani riguardavano un elemento diciamo, non così diciamo, dirompente, però hanno ben intonato tutte le borse. Sì, diciamo un'interpretazione un po' cervellotica di questi dati americani, che comunque sono importanti, perché sono gli ordini di beni durevoli, che sono un indice dell'andamento dell'economia reale. In realtà il dato di agosto non è stato esaltante, anzi è stato sostanzialmente in linea con quelle che erano le previsioni, forse leggermente peggio. In realtà è stato rivisto al rialzo in maniera consistente quello di luglio, ed è questo probabilmente che ha spinto al rialzo le borse, ha dato via anche gli acquisti a Wall Street. Ok, per quello che riguarda, anch'io sono d'accordo con te che insomma il dato è un dato barra scusa più che un dato dato, non so se si possa usare questa definizione. Comunque, ne hanno approfittato appunto tutte le borse, da noi CIR, e invece qui c'è un elemento diverso che riguarda proprio la cronaca, più 5,2%, qui c'è la perizia sul lodo Mondadori, Sì, CIR infatti è decollato dopo la notizia del deposito della perizia, senza che neanche poi si sapesse in realtà qual era l'esito di questa perizia. Comunque la scommessa è stata questa, e in realtà poi è venuto fuori il contenuto, vengono riconosciuti dei danni inferiori del 30-35% rispetto a quelli che erano stati riconosciuti in primo grado, che erano di 750 milioni. Quindi comunque un esito positivo per CIR nella nota vicenda del lodo Mondadori, che vede il gruppo di De Benedetti opposto a Fininvest e quindi acquisti sul titolo. Beh, 550 milioni non sono poca cosa, strano a questo punto però che non cali Mediaset. Sì, Mediaset oggi ha chiuso con un più 1%, comunque insomma, sicuramente premiate le CIR, forse si ritiene che 500 milioni non siano molto per Mediaset. Pirelli più 4,1%, Mediolanum più 4%, allora Mediolanum cos'è? Torna l'ipotesi, che cos'è, un'ipotesi intermittente, un giorno c'è, un altro no, poi c'è di nuovo Mediolanum Generali e poi invece le Pirelli. Ma allora, Mediolanum più che altro è il riflesso di un rinnovato interesse per i finanziari, ne prova che anche Intesa San Paolo ha guadagnato il 3,28, Unicredit il 3,2, Monte dei Paschi di Siena il 3,1, insomma molto premiati finanziari soprattutto a Milano rispetto all'Europa. Per quanto riguarda Pirelli, grande entusiasmo degli operatori in vista della presentazione del piano triennale che avverrà il 4 novembre, poi è stato appena presentato a Istanbul l'impianto per la produzione dei pneumatici per la Formula 1, poi abbiamo anche dei report positivi da parte degli analisti e questo ha spinto a rialzo il titolo, anche in vista dello spin-off dell'immobiliare che è ormai questione di settimane. Ancora tra i titoli, tu ricordavi giustamente bene oggi tutti i bancari, oltre a quelli che tu hai già citato, Monte dei Paschi più 3,2, Banco Popolare più 2,2, Generali più 2,1, Popolare di Milano più 1,7, Ubibanca più 1,3%, di negativo lo dico subito c'è solo Impregilo meno 1 e Autogrill meno 0,40, pesa la debolezza del dollaro su Autogrill, se vogliamo anche su Luxottica che ha guadagnato meno dell'indice, mezzo punto percentuale. Ancora Eni ha lanciato oggi un'obbligazione perché praticamente ha lanciato l'apprezzata ieri, un'emissione obbligazionaria in dollari americani da 800 milioni di dollari a tasso fisso, ma è una cosa che non vedrete perché era destinata tutta a investitori professionali, mentre su Enel le notizie riguardano la trattativa con Endesa, anzi con Goldman Sachs per la rete gas Endesa in Spagna. Questo lo scrive, o meglio lo anticipa, il quotidiano economico Expansion. Il gruppo elettrico starebbe trattando con il fondo infrastrutture di Goldman Sachs appunto per la cessione della rete di distribuzione del gas di Endesa in Spagna, e il titolo Enel per la precisione oggi ha fatto più 1,3%, Eni visto che lo citavamo più 0,30%. Molto bene Bulgari, andiamo tra i titoli più sottili, migliori e peggiori. Stefanel più 15%. Stefanel deve il balzo di oggi alle indiscrezioni riportate dal Mondo e di fatto non sono arrivate smentite, quindi confermate, di una trattativa per la quotazione in borsa della società Nuance che Stefanel controlla al 50%, l'altro 50% è Arturo Bastianello. Ciò significa che comunque per Stefanel c'è una cessione della partecipazione e un incasso di denaro, di liquidità, quindi titolo che è balzato alle stelle. Ancora tra chi va molto bene Sogefi più 8,5%, Aeroporto di Venezia più 7,80%, male, molto male Sopaf meno 9%. Sopaf Sopaf il suo valore era praticamente raddoppiato da fine agosto ad oggi, in attesa della ristrutturazione del debito della società, che è pari a circa 130 milioni di euro. Poi l'indiscrezione di oggi, su Sole 24 Ore, del fatto che il pool di banche capitanato da Unicredit ha di fatto ridefinito la ristrutturazione del debito, e quindi, come al solito, gli operatori, dopo aver comprato in attesa della notizia, hanno venduto sulla notizia, come si suol dire. Allora, grazie, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Coro del Sole 24 Ore. Grazie, nel caso specifico a CEO Condina. Allora, adesso parleremo di Infotrans, ossia della più grande manifestazione dedicata al settore ferroviario, che si tiene ogni anno a Berlino. Rivolgo un appello, poi vediamo se avrà qualche esito, a chi continua a scrivere, diciamo, di temi di politica. Le elezioni vediamo se ci saranno, ma aspettate, è inutile buttare sempre tutto quanto in politica. C'è quasi la sensazione che alcuni si mettano solo per contestare, per dire che tutto va bene, ma qua non va né tutto bene né tutto male, si va come dicono i dati statistici. Lasciate fuori da questo programma il dibattito politico, anche perché se va avanti così andrà in cancrenirsi sempre di più il traffico. E allora, trasporto ferroviario, perché non ne parliamo praticamente mai, anzi abbiamo parlato recentemente quando il Consiglio di Stato ha bocciato, anzi ha dato ragione al ricorso di Alstom sulla vittoria del consorzio Bombardier-Breda per il nuovo treno ad alta velocità delle Ferrovie dello Stato. Tutto congelato, una vicenda che avrà poi gli ultimi sviluppi proprio a fine mese, ma si è parlato molto di Ferrovie dello Stato, di ferrovie, scusatemi, non dello Stato, ma di trasporto su ferrovia a Berlino in questi giorni. Oggi si conclude infatti Innotrans, la più importante fiera del settore ferroviario. Tra l'altro lì è stato anche presentato con una conferenza stampa il nuovo treno a altissima velocità V300 Zefiro, quello appunto che avrebbe vinto la gara se poi il TAR e il Consiglio di Stato non l'avessero bloccata, prodotto da Ansaldo Breda e Bombardier. Gara che vale, lo ricordo, 1 miliardo e 540 milioni di euro, gara indietro dalle Ferrovie dello Stato, perché prevede la fornitura di 50 treni. È molto secco e tranchant il numero uno delle Ferrovie dello Stato contro Alstom, che ha fatto ricorso e l'ha visto anche accolto. Se, visto che c'è un ritardo in corso, ha detto Mauro Moretti, se ci accorgeremo che il ricorso di Alstom è stato fatto in malafede, chiederemo i danni per il ritardo causato. Sentiamolo al microfono del collega di Radio Coro del Sole 24 Ore, Massimiliano Zampini. La nostra azienda ha fatto questa gara in perfetta efficienza, non ci siamo accontentati di andare a prendere quello che è sul mercato, abbiamo voluto fare un treno con contenuto innovativo enormemente superiore a quello disponibile. Spero che questo venga premiato. Abbiamo visto che sono osservazioni formali che perlomeno da parte dei nostri legali vengono ad essere considerate ininfluenti agli effetti degli esiti. Vorrei dire che queste cose si fanno quando c'è una reale possibilità di subentrare nella fornitura, ma in questo caso non c'è neanche questa possibilità, perché noi i soldi per arrivare dai 30, quelli che costano, ai 35 milioni, quelli del ricorrente, non ce li abbiamo, quindi è una fatica inutile, solo danno per noi. Ecco, lei giustamente parlava di danno. Mi sembra di capire che l'azienda è pronta a un'azione forte qualora il TAR dovesse sospendere la gara, dal chiedere i danni al ricorrente fino ad andare a una trattativa privata. È una cosa un po' diversa. Le azioni devono essere fatte tutte in buona fede. Nel caso in cui verificassimo non ci sia una buona fede, a quel punto chiederemo i danni. E invece per l'assegnazione della gara come intenderà procedere? Dovremo aspettare le risultanze del TAR, appena il TAR avrà detto come noi auspichiamo non dovrebbe fare sospensiva, in quel caso naturalmente affidiamo. Lei vuole stare sul mercato europeo, però il mercato europeo a parole viene liberalizzato, dice lei, ma poi nella sostanza non è poi così. Cosa c'è da fare? Il primo problema è fare una normativa omogenea tra tutti gli stati. Non si possono avere più direttive europee e leggi nazionali che sono completamente diverse l'una dall'altra. Secondo, non si può avere una liberalizzazione tra imprese che non partono con lo stesso tipo di situazione. Non è giusto fare una competizione tra imprese che hanno dei pesi finanziari diversi, contribuzioni dallo Stato diverso. Se io piglio 10 per coprire i miei costi e in Germania gliene danno 20, moltiplicate per tutti i passeggeri i chilometri che fanno, c'è una differenza di 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo. Così Mauro Moretti, direttore numero uno delle Ferrovie dello Stato, sempre sulle attese, ne parleremo poi in diretta quando arriverà la sentenza per il ricorso al TAR, appunto presentato dalla Stom, anche chi invece la gara l'avrebbe teoricamente vinta, ossia Alberto Rosani, in quanto presidente di Ansaldo Breda, sempre al microfono del nostro Massimiliano Zampini. Siamo sereni, c'è un fatto obiettivo che noi siamo risultati primi su tutti e tre gli argomenti: tempi di consegna, prezzo, con un prezzo minore su tutto, cioè includendo la manutenzione e le opzioni, ma in particolare il prezzo del treno è del 17% inferiore a quello del concorrente. Sui tempi di consegna e sulle caratteristiche tecniche, è un treno italiano per l'Europa e per il mondo che è risultato il migliore in una gara internazionale, per questo noi aspettiamo con fiducia i passi successivi di questo ricorso. Naturalmente è una cosa che ci dispiace perché fa perdere tempo, ma ad ogni modo noi siamo fiduciosi che le cose andranno secondo ragione. Ingegnere, Ansaldo Breda ha vissuto anni difficili, questa gara era considerata un passaggio anche cruciale per il rilancio dell'azienda. Ecco, a che punto è l'azienda e quanto questa gara può essere di nuovo un volano per riprendere un percorso di sviluppo? L'azienda in questi ultimi due anni ha fatto molto per riorganizzarsi, mettere a posto i problemi del passato, che naturalmente restano, nel senso che tutto ciò che non andava è stato messo a posto, ma certe consegne, certe commesse devono essere completate. Questo, diciamo, che il turnaround lo consideriamo per il rilancio definitivo dell'azienda, non solo nel settore dell'alta velocità, ma anche quello della main line e delle metropolitane e del mass transit, dove abbiamo continuato a operare con successo. Allora, ci avviamo verso la conclusione della prima ora, poi i temi delle relazioni industriali, le tesi di Confindustria, le dichiarazioni di Emma Marcegaglia sull'Italia in cui la crisi non ha avuto effetti minori che altrove, la risposta del ministro Brunetti a tutto questo nella seconda parte del programma. Stavamo dimenticando però un appuntamento fisso, visto che ormai sono 143 giorni che manca lo ministro allo sviluppo economico. Voto Antonio, italiani! 143, il concorso non vale per il presidente della Consob invece, insomma 143, nonostante le varie rassicurazioni, questa non è buttarla in politica e chiedere che un paese che, come chiesto anche da Confindustria, dai sindacati, dai vari esponenti dell'economia, che vi sia un ministro in un dicastero importantissimo, quello dello sviluppo economico. Staremo a vedere, votate il vostro ministro dello sviluppo economico, come sempre, esponente dell'economia, dell'università, delle imprese, ma un nome realistico e chiaramente non esponente dell'opposizione che mai potrebbero passare, e poi vedremo di confrontarlo con il risultato quando arriverà col nome definitivo. Adesso c'è il GR e poi gli altri temi del programma. 349-238-6666 per i vostri SMS. Le 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, dell'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, dopo aver toccato vari temi di cronaca, occupiamoci adesso del tema per cui siamo qui a Genova in diretta dalla prima giornata di lavori del convegno di Confindustria, dedicato soprattutto all'occupazione, alla competitività e quindi anche alle riforme possibili nelle relazioni industriali. Ha appena terminato il suo intervento il vicepresidente per le relazioni industriali di Confindustria, Alberto Bombassei. Adesso vi facciamo ascoltare un passaggio. È chiaro che domani si entrerà ancora più nel vivo con la presenza dei tre segretari dei sindacati, quindi Bonanni per la CISL, Epifani per la CGIL e Angeletti per la UIL, e anche poi il ministro welfare Maurizio Sacconi, e le conclusioni del presidente della Confindustria Marcegaglia. Sentiamo la proposta in estrema sintesi, che è un estratto, che è arrivata dall'intervento di Alberto Bombassei su un nuovo modello nelle relazioni industriali. La settimana scorsa la presidente Marcegaglia ha rivolto un invito a tutte le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e da tutti i sindacati per ragionare insieme sulle priorità della politica economica per il rilancio della crescita del nostro Paese. All'interno di quel progetto, oggi, Confindustria si rivolge alla politica e ai sindacati per invitare tutti, con determinazione e convinzione, ad assumere insieme l'obiettivo di realizzare sui temi del lavoro concrete convergenze per la crescita, la competitività e l'occupazione. Una pratica non fine a se stessa, bensì per raggiungere nel breve periodo obiettivi di volta in volta condivisi. Il progetto per la crescita della competitività e dell'occupazione che Confindustria propone potrà conseguire pienamente gli obiettivi se tutti gli attori converranno su alcuni punti. Cominciando dal fatto che per crescere la competitività le imprese hanno bisogno di normali livelli di produttività degli stabilimenti, normali condizioni operative per il maggior utilizzo degli impianti, la certezza dell'attuazione degli accordi sottoscritti, e convergenze dovranno registrarsi poi fra tutti gli attori anche sulle necessità che il patto sia in grado di promuovere la semplificazione delle normative di lavoro, la meritocrazia, la mobilità sociale, un effettivo incontro fra domanda e offerta di lavoro, l'uscita da ogni forma di assistenza in caso di rifiuto di nuove offerte di lavoro e giovani che escano più preparati dal percorso scolastico. Questo dovendo il Paese accelerare e non contrastare le riforme già messe in campo. Il nostro patto di convergenza, per essere efficace, deve dare un segno di discontinuità, prima culturale e poi chiaramente di merito. Per iniziare sarebbe sufficiente avere la volontà comune di rendere operativo ciò che già oggi possiamo fare, applicando le norme esistenti, facendo funzionare i regolamenti già approvati, dando seguito agli impegni negoziali già sottoscritti. Quello che dobbiamo fare è decidere tutti insieme, imprese, governo, regioni e sindacati, se siamo anche noi nel gioco della crescita e dello sviluppo oppure ci chiamiamo fuori, perché c'è ancora chi pensa, sbagliando, che ci siano maggiori garanzie non cambiando nulla nel passato. Allora, questo è un passaggio dell'intervento che si è appena concluso del vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei. Il tema è un tema delicatissimo ma anche fondamentale, nuove relazioni industriali, ne abbiamo parlato molte volte, non è solo la vicenda Fiat, quella è stata, diciamo, se vogliamo, la punta dell'iceberg. È chiaro che questa crisi porta anche a un diverso modello nei rapporti datore di lavoro-lavoratore, e quindi le imprese chiedono maggiore flessibilità, i sindacati chiedono però che a questo si accompagni alla produttività anche in alcuni casi una condivisione degli utili. L'altro grosso tema continua ad essere invece anche oggi come va l'Italia, se l'Italia, come ci hanno raccontato in questi anni, beh, prima si è detto che la crisi non c'era, poi la crisi l'avevamo superata meglio degli altri, e insomma anche ieri un po' di polemica c'è stata, chi ha sentito il programma l'ha potuto notare, sui dati sulla disoccupazione che lì è stato diffuso sul secondo trimestre dell'anno. Perché insomma la disoccupazione all'8,5% è la più alta per quello che riguarda dal 2003, per i giovani la più alta dal 99. Il ministro Sacconi ha fatto notare: noi siamo sotto la media però degli altri paesi. Il nostro ospite, che poi interverrà anche in questo convegno, mi riferisco all'economista che insegna alla Washington University, Boldrin, Michele Boldrin, ha detto: no, attenzione, è l'Italia in qualche modo sbaglia perché non inserisce in questi dati i cassi integrati, che invece sono a tutti gli effetti le persone che non hanno un lavoro pur ricevendo un sussidio di disoccupazione. In altri paesi chi riceve un sussidio di disoccupazione viene considerato disoccupato. Insomma, la Banca d'Italia ha stimato che se calcolassimo anche inserissimo i cassi integrati, arriveremo a un 3 punti percentuali in più nella disoccupazione, e questo è il dato complessivo. Oggi una dichiarazione della Presidente di Confindustria, questa mattina Emma Marcegaglia ha riaperto il dibattito. Allora andiamo con ordine, perché a noi interessano i dati, e con questa scheda vediamo di capire come è messo il mercato del lavoro in Italia. Al di là della politica, mi rendo conto che le tensioni politiche si sfoghino anche sui nostri sms al 349-238-6666, con qualche ascoltatore che vuole vedere tutto in chiave pro o contro il governo. Comunque i dati, poi vediamo le dichiarazioni, sentiamo le dichiarazioni di Marcegaglia e quelle poi del ministro Brunetta. Seppur salita all'8,5%, la disoccupazione italiana resta più bassa rispetto alla media dell'area euro. Si tratta però di una consolazione magra, se si considera che la quota di senza lavoro ha raggiunto il livello più alto dal 2003 e che oltre un giovane su quattro non trova un impiego. Per di più, secondo il centro studi di Confindustria, la situazione è destinata a peggiorare e il tasso di senza lavoro raggiungerà un picco del 9,3% alla fine del 2011. In questi due anni di crisi si sono persi quasi 500.000 di posti di lavoro, e se la cassa integrazione ha arginato l'impatto sociale dell'emorragia, i problemi strutturali del nostro mercato del lavoro rimangono e si acutizzano. Oggi un lavoratore italiano costa tanto e guadagna poco. Un paradosso solo apparente che si spiega in parte con il cosiddetto cuneo fiscale, ossia la differenza tra retribuzione lorda e netta, su cui incidono prelievi fiscali e contributivi, in parte con una produttività ferma da 15 anni. È opportuno precisare che far salire la produttività non significa tanto lavorare di più, quanto e soprattutto lavorare meglio, grazie, ad esempio, a un miglioramento dell'organizzazione del lavoro, a una pubblica amministrazione più efficiente, a maggiori investimenti e a una concorrenza più accesa. Tra il 2000 e il 2007 il costo del lavoro italiano in rapporto alla produttività è salito del 20%, quasi il doppio della media europea. Nello stesso periodo in Germania si è addirittura registrata una lieve discesa. A tirare le somme è il World Economic Forum, che piazza l'Italia al 118° posto su 139 nella classifica che misura l'efficienza dei mercati del lavoro. Oh, questi i dati, piacciono o non piacciono. Adesso andiamo con le informazioni sul traffico, poi sentiamo il commento appunto della Presidente Confindustria Marcegaglia, poi con il Ministro Brunetta. La risposta, tra l'altro, rilasciata poco fa dal segretario della CISL Bonanni. Invito almeno gli ascoltatori a non buttare, seconda volta che lo faccio oggi, tutto in politica, come si diceva una volta, perché insomma, l'economia necessita di analisi, non di partigiani, anche se mi rendo conto che delle volte è difficile. 349-238-6666 per i vostri sms. Il traffico. In questo paese anche i dati si possono, diciamo, interpretare, perché l'Istat appunto dice che la disoccupazione ha raggiunto i massimi dal 2003 e quella giovanile i massimi dal 99, e poi inizia la polemica politica, il governo che dice no, ma siamo meglio di altri paesi europei, l'opposizione che risponde se calcoli la cassa integrazione, come dice la Banca d'Italia, arrivi a un livello più alto. Allora, su questo è intervenuto oggi la Presidente di Confindustria Marcegaglia, che ha detto in sostanza, commentando i dati sulla disoccupazione: attenzione, la priorità della politica in questo momento dovrebbe essere l'occupazione e la crescita, non la conta dei parlamentari, e non è vero che l'Italia se l'è cavata con la crisi meglio di altri paesi. Sentiamo questo doppio passaggio, è intervenuta a Viareggio l'assise di Confindustria Toscana.

e guarda caso hanno avuto adesioni bassissime, scarsissime, l'ultima addirittura del 2,5% dei dipendenti. Quindi questo è un dato di fatto, l'Italia in questi anni di crisi ha attraversato la crisi sociale, senza crisi bancarie. In Italia non ci sono state crisi bancarie, nessuno si è messo in coda in Italia davanti agli sportelli per ritirare i propri risparmi. Il governo quindi ha ben governato anche dal punto di vista della sicurezza del sistema bancario. Le banche hanno fatto ovviamente la loro parte, nel senso che non erano particolarmente stressate, e uso questo termine in maniera tecnica, e non sono state particolarmente stressate. Il governo ha fatto la sua parte nel dare le garanzie ai risparmiatori. Il risultato è che non c'è stata nessuna crisi bancaria. Il sistema degli ammortizzatori sociali in Italia ha funzionato molto bene, sia nella loro accezione standard, sia nella loro accezione allargata, vale a dire la cassa integrazione in deroga. Come si è detto in maniera molto semplice, di non lasciare solo nessuno, nessuno è stato lasciato solo, con grande abbondanza di risorse, e questo è stato fatto, e nessuno può dire, né lavoratori né imprese, che non abbiano potuto avere l'aiuto degli ammortizzatori sociali, e questo ha consentito tra l'altro al sistema delle imprese di ristrutturarsi, di non collassare, di ristrutturarsi e di rilanciare. Due letture abbastanza diverse, quella della Presidente Confindustria e quella del Ministro Brunetta. Anche ieri abbiamo detto, è immaginabile che i governi tendono un po' a edulcorare la situazione. Poco fa la replica della Presidente Confindustria Marcia Gagli ha detto: attenzione, noi abbiamo chiesto non di crescere come la Germania, ma di arrivare alla media europea, che è del 2%, mentre la Germania crescerà del 3,4%. E poco fa anche il commento del segretario della CISL, Raffaele Bonanni, che ha detto: la Marcegaglia ha ragione, l'Italia è andata come gli altri paesi, se non peggio. Domani vedremo scintille, quindi, visto che Bonanni e Pifani saranno qui con i loro interventi, e però vi sarà anche il ministro welfare Sacconi. A me non resta che augurare a tutti voi in ascolto, comunque la pensiate, un buon fine settimana. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Buona domenica, a lunedì. Radio 24. La passione si sente.